Sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Buone notizie, finalmente salgono le borse, scendono i tassi sui mutui e l'Istat conferma il calo dell'inflazione. Saviano deve morire, nelle rivelazioni di un pentito il piano dei casalesi per uccidere lo scrittore di Gomorra. Formaggi scaduti, si cambia l'etichetta. I dipendenti di un magazzino della Galbani presentano un esposto in procura. Università e scuola, ecco le proteste. Negli atenei ripartono le occupazioni. Veltroni propone lo scambio, pronti a votare un giudice costituzionale proposto dal centrodestra, ma Orlando presieda la commissione di vigilanza Rai. Ma chi sono questi accademici di Svezia? Assegnato l'ultimo Nobel, andiamo a sentire i meccanismi dietro la premiazione. Una buona giornata da Simone Spezia ed Alessandra Tedesco. E benvenuti a questa nuova edizione del GR Extra Large, che apriamo ancora una volta con l'andamento dei mercati finanziari e non solo. Ma finalmente per parlare di buone notizie, due le buone notizie, dicevamo, le borse, ma anche una buona notizia sul fronte dei mutui. Allora, Deborah Rosciani, partiamo proprio dai mutui. Cosa è successo? È successo che il tasso Euribor a tre mesi questa mattina è stato fissato al 5,23,5%, in calo dal 5,31% di ieri. Per la verità, questa discesa timidissima è iniziata già da qualche giorno, da quando settimana scorsa le banche centrali hanno orchestrato il ribasso dei tassi di interesse delle principali economie di mezzo punto percentuale. È una buona notizia perché naturalmente l'Euribor si è riportato ai minimi dal 30 settembre scorso ed è sta scendendo pian piano verso quel livello che è stato indicato anche dal governatore della Banca d'Italia Mario Draghi, che proprio ieri ha dichiarato i tassi, l'Euribor è ancora oltre il 5%. Noi lo vediamo naturalmente più basso perché il mercato interbancario è inaridito e faremo di tutto per fare in modo che le banche non si sentano vincolate anche nella loro operatività. L'altra buona notizia di giornata, Deborah, i mercati. I mercati stanno andando piuttosto bene dopo i rialzi record di ieri. Oggi le borse europee stanno replicando i progressi, con Parigi che segna un rialzo del 5,54%, Francoforte più 5, Londra più 6, Milano, miglior piazza d'Europa, più 6,25% sull'S&P MIB. Grazie Deborah Rosciani, ed è di pochi minuti fa la dichiarazione del Presidente della Commissione Europea, José Manuel Barroso, che si è detto soddisfatto dello sforzo senza precedenti fatto dall'Europa per fronteggiare la crisi dei mercati finanziari. Il riferimento è ai provvedimenti che i singoli Stati hanno approvato ieri, però decisi, diciamo, coordinati con l'Unione Europea. Barroso fa comunque un'avvertenza e dice: i lavori sono ancora in corso, vediamo la luce in fondo al tunnel, ma non ne siamo ancora usciti. E noi vediamo di riepilogare proprio le misure contenute nel decreto approvato ieri dal Consiglio dei Ministri straordinario. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Buongiorno, buongiorno ai nostri ascoltatori. Allora Vincenzo, iniziamo ad analizzare le cose punto per punto. Si parla di swap del tesoro. Che cosa si intende esattamente? Cosa vuol dire? Sì, una premessa è d'obbligo: le misure previste ieri dal decreto del governo sono destinate a ridare liquidità ad un mercato del credito messo in crisi dal ciclone mutui, ed è qui che interviene il tesoro. Si parla di swap nel senso che il Ministero dell'Economia è autorizzato ad effettuare operazioni di scambio temporanee tra titoli di Stato e strumenti di debito delle banche italiane. Queste ultime pagheranno l'operazione in questione alle condizioni di mercato. In pratica le banche finanziano le loro attività con titoli sicuri e maggiormente commerciabili rispetto ad obbligazioni o azioni bancarie che in questo momento non avrebbero mercato. Nel decreto si parla anche di garanzia dello Stato. In che senso? Che cosa si intende dire? Di fatto lo Stato si spinge a garantire in prima persona le operazioni di prestito titoli effettuate dalle banche italiane a soggetti privati che possono essere anche non bancari. Ci sono però delle condizioni precise: la garanzia statale dura fino a 5 anni e riguarda i titoli emessi entro il 2009. È necessario inoltre il preventivo via libera di Banca Italia. Anche qui vale il discorso fatto in precedenza: i titoli degli istituti di credito hanno in questo momento poco appeal, sapendo però che dietro c'è lo Stato, si allarga la possibilità del loro collocamento. Proprio a proposito della Banca d'Italia, Vincenzo, quale sarà il suo ruolo secondo questo decreto? Che cosa dovrà fare la Banca d'Italia? Il ruolo dell'Istituto di Via Nazionale è quello di supervisore, di grande ombrello protettivo sul sistema del credito italiano. In particolare Banca Italia può effettuare anche lei operazioni di swap di titoli ad elevata qualità con attività detenute dalle banche. Le operazioni in questione avranno la durata di un mese, sono remunerate all'1% su base annua, il totale movimentato non può superare però i 40 miliardi di euro. Questa operazione permette alle banche di accedere poi alla liquidità della Banca Centrale Europea. Grazie Vincenzo per questi aggiornamenti e per queste spiegazioni sul decreto. Ecco, sul complesso di queste misure prese dall'esecutivo, in linea di massima è arrivata una sostanziale concordia da parte dell'opposizione. Il Partito Democratico ha aperto alle proposte del governo. Proprio a proposito di questo, la nostra Chiara Di Michele ha sentito poco fa il ministro ombra del PD, Pierluigi Bersani. Sentiamo cosa le ha detto. Le misure sta prendendo il governo, se le vedremo nel dettaglio, perché ne abbiamo ancora viste, se stanno dentro questo quadro concordato a livello europeo, sono misure ragionevoli. Poi noi continuiamo a dire che non sono sufficienti, perché ci si sta occupando solo del lato, diciamo, banche, risparmio giustamente e anche liquidità giustamente, però noi abbiamo un problema sull'economia reale che ha fatto il potere d'acquisto che si è ridotto troppo, dei consumi troppo bassi e di una piccola impresa che fa fatica in questo momento, quindi noi dobbiamo accompagnare queste misure con misure sull'economia reale, cifrate questa volta, con un po' di soldi che si possono trovare e da fare subito assieme alle altre, ecco, non mettendoci un prima e un dopo. Ho colpevolmente omesso il dicastero ombra, è il ministro ombra dell'economia per Luigi Bersani, naturalmente. Nel frattempo il Dipartimento del Tesoro americano sarebbe pronto a investire fino a 250 miliardi di dollari in grandi e piccole banche, secondo un piano che dovrebbe essere annunciato oggi. La Federal Deposit Insurance Corporation offrirà garanzie illimitate sui depositi bancari senza interesse, portando così gli Stati Uniti in linea con molti paesi europei. La cronaca adesso: uccidere Roberto Saviano entro dicembre. Questa è l'indicazione dei casalesi nei confronti dell'autore di Gomorra, considerato scomodo per le cose che ha scritto. Che Saviano fosse minacciato è cosa nota da tempo, tanto che da 2 anni vive sotto scorta. La novità sarebbe questa data precisa, resa nota da un collaboratore di giustizia che forse ha ancora contatti con i clan. Il piano è dettagliato. Una data entro Natale, un luogo, l'autostrada Roma-Napoli, una tecnica, l'esplosivo. L'ipotesi che ora è al vaglio della direzione antimafia di Napoli nasce dalle rivelazioni di Carmine Schiavone, cugino del boss Sandokan e pentito storico del processo contro i casalesi. Secondo Schiavone, il gruppo stragista che guida il clan dei casalesi avrebbe deciso di uccidere lo scrittore Roberto Saviano entro fine anno. L'ipotesi dell'uso dell'esplosivo è collegata a un'altra informazione resa agli inquirenti da Oreste Spagnuolo, uno dei 3 killer arrestati per primi per la strage del 18 settembre scorso. L'uomo ha infatti riferito che Giuseppe Setola, boss della frangia stragista dei casalesi, era in cerca di esplosivo e detonatore. Bruno De Stefano, giornalista, autore di Napoli Criminale e di un libro di prossima uscita sul sistema delle tangenti in Italia, è prudente. Carmine Schiavone ha dimostrato più volte di essere attendibile, però onestamente io con le rivelazioni di collaboratori di giustizia andrei sempre cauto. Spesso hanno anche esigenze che vanno al di là, diciamo, della collaborazione per semplice, si tratta di voci che potrebbero essere fatte circolare ad arte, magari anche per depistare. Questo nulla toglie, diciamo, al pericolo che corre Roberto Saviano, che però è vecchio di 2 anni. Come dicevo, andrei cauto perché comunque non so Schiavone da dove abbia potuto prendere informazioni così dettagliate al punto da dire entro Natale. Mi sembra una dichiarazione troppo circostanziata per poter essere presa per oro colato. E Gigi Di Fiore, inviato del Mattino e autore di L'Impero, traffici, storie e segreti dell'occulta e potente mafia dei casalesi, dice: la DDA napoletana sta valutando con molta cautela ovviamente queste rivelazioni, perché non sono di prima mano ma sono del relato. Carmine Schiavone è stato il primo pentito storico della mafia casertana e le sue rivelazioni risalgono al 93, e da 15 anni lui è completamente fuori da ogni inserimento nell'attività criminale perché sotto protezione da quella data, quindi non si capisce come e chi gli abbia fatto queste rivelazioni. Il collegamento con Spagnuolo poi è tutto da verificare, in quanto Spagnuolo ha parlato di esplosivo che il suo gruppo avrebbe voluto acquisire. Paolo Piacenza, GR24, Il Sole 24 Ore. Il rogo della ThyssenKrupp. I pubblici ministeri ribadiscono le richieste di rinvio a giudizio per l'incidente del 6 dicembre scorso, costato la vita a 7 operai. L'incendio della ThyssenKrupp è il prodotto di una politica aziendale, sostengono, e i vertici del colosso dell'acciaio sapevano che a Torino si correvano dei rischi. E proprio oggi a Terni, altra sede dell'azienda tedesca, si apre un festival che parla di cinema e di lavoro. Il cinema è l'arte di questo secolo, è il modo con il quale la società industriale e post-industriale ha raccontato se stessa. In Italia c'è una sola manifestazione a parlare di film, documentari, spot, dedicati a un aspetto fondamentale della nostra vita, il lavoro. Si chiama Cinema e è lavoro e inizia oggi a Terni. Pierluca Neri. Abbiamo selezionato una serie di film e di documentari, cominciando proprio con la presentazione su Terni del film di Mimmo Calopresti, La fabbrica dei teschi. Terni è la casa madre della ThyssenKrupp in Italia. Era giusto testimoniare quello che è l'incidente sul lavoro per eccellenza. Ci sarà il tema della sicurezza e delle morti bianche trattato dal punto di vista dell'immigrato in un film che si chiama Italy Paradis di Veronica Suriano. Ci sarà invece il dramma eterno dell'Ilva di Taranto in Arrivederci a Taranto, oppure quello dell'amianto in Arrakis, documentario poetico di Andrea Di Nardo. Il festival ha poi promosso un concorso online, My Job, con i video inviati da tutti coloro che volevano raccontare il loro lavoro. Ha un comodo studio dove svolgere il suo mestiere al meglio. Ha la bellezza di 1.100 euro al mese che tutto sommato lo rendono tranquillo. Ma a Nicola Spettro non gli vengono versati i contributi utili per ricevere una degna pensione. Nicola Spettro lavora in nero. C'è la storia di Nicola Spettro, c'è la storia di Luca, professione musicista, hobby operaio oppure i sogni dell'impiegato. E poi ancora precari, bamboccioni e le preoccupazioni della sicurezza. Tutti i video e il programma del festival sul sito cinemaelavoro.com. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. GR Extra Large, queste le notizie della giornata. Notizie positive dalle borse anche oggi, mentre scendono i tassi sui mutui, con l'Euribor che passa al 5,24% dal 5,32% di ieri, le piazze finanziarie europee sono tutte col segno positivo. Francoforte guadagna il 5,5%, Parigi il 5,6%, Milano in questo momento guadagna il 6,42% sull'S&P MIBD e il 6,36% sul MIBTEL. E buone notizie arrivano anche dall'inflazione. L'Istat conferma la stima preliminare di un 3,8% in settembre rispetto al 4,1 di agosto. Scende al 5,4% dal 5,7% anche l'inflazione per i beni ad alta frequenza di acquisto. La direzione investigativa antimafia di Napoli ha avviato indagini sull'ipotesi di un piano del clan dei Casalesi per compiere un attentato contro lo scrittore Roberto Saviano, l'autore di Gomorra. Walter Veltroni lancia una proposta per sbloccare la trattativa sull'elezione di un giudice costituzionale sul presidente della commissione di vigilanza Rai. Il centrodestra scelga il nome del giudice costituzionale, ha detto Veltroni, ma voti Leo Luca Orlando come presidente della vigilanza. Ripartono le proteste nelle scuole, ma soprattutto nelle università. Ieri a Milano alcuni studenti hanno brevemente occupato il rettorato della statale, mentre a Torino l'università compatta minaccia di far saltare l'apertura dell'anno accademico. Alcuni dipendenti della Galvani avrebbero presentato un esposto in procura contro la stessa azienda, denunciando di essere stati obbligati per anni dai capi a vendere merce con la data di scadenza contraffatta. Gli occhi della guerra. Le fotografie come testimonianza dei conflitti nel mondo, molti dei quali dimenticati. Oggi a Roma, nel Museo di Roma in Trastevere, viene inaugurata una mostra fotografica, Gli occhi della guerra, appunto. 25 anni di reportage dall'Afghanistan all'Uganda, dal Medio Oriente alla Somalia, dal sud-est asiatico al Centro America. Foto di Gianni Calessina, Almerigo Grills, reporter morto sul campo, e Fausto Biloslavo. Foto che fanno la nostra storia recente. Due dall'Afghanistan, per esempio, uno scatto che nel 1989 ritrae le colonne sovietiche che si ritirano dall'Afghanistan attraversando il ponte dell'amicizia che unisce il paese al crocevia dell'Asia all'Unione Sovietica, appunto, e un'altra che rappresenta nel 1987 il comandante Ahmad Shah Massoud che verrà ucciso da Al-Qaeda due giorni prima degli attentati dell'11 settembre. Foto storiche dunque, ma foto, come dicevamo, che ci fanno la storia recente. Fausto Biloslavo, tu sei l'autore, uno degli autori di queste foto. Parliamo allora della situazione in Afghanistan oggi. Com'è la situazione e come, per esempio, sta cambiando la strategia degli Stati Uniti in quel paese? In Afghanistan siamo impegnati in una missione che continua a venire chiamata di pace. In realtà è una guerra certamente per ottenere la pace. In questa guerra siamo coinvolti anche noi italiani con le nostre truppe, soprattutto nell'ovest del paese. gli americani, ma un po' tutti, la NATO globalmente si è resa corta che in Afghanistan la guerra militarmente, solo militarmente, non si può vincere. E quindi bisogna trovare un'altra soluzione. Da una parte potrebbe essere quella di conquistare il cuore e le menti degli afghani, anziché ogni tanto bombardarli per sbaglio, e soprattutto, questo sembra che sia l'ultima novità, trattare anche col nemico, o almeno con le fazioni dei talebani che accettano di sedersi attorno a un tavolo. Fausto, tu quest'estate la guerra in Afghanistan ce l'hai raccontata. Ogni mattina abbiamo mandato in onda un tuo taccuino di guerra da là. Ecco, al di là della strategia generale di come sta cambiando, che se te la senti, se riesci a darci un'impressione generale su quel che hai visto in questi mesi? Beh, ho visto combattimenti molto duri. Ho visto i Marines nel sud del paese, nelle loro postazioni verso il Pakistan, oltre c'erano solo i talebani che dicevano senza peli sulla lingua stiamo qua per spazzarli via e poi torneremo a casa. A casa sono tornati, non li hanno ancora completamente spazzati via, ne arriveranno altri di Marines. Ho visto anche però i nostri ragazzi, i giovani soldati italiani di 23, 25, 27, 30 anni che con le unghie e coi denti tenevano un fortino isolato ai confini dell'Afghanistan e del mondo, nella provincia di Bagdis, che si chiamava Balamurgab. Gli avevano detto di prenderlo perché là gli ultimi ad arrivarci erano stati soldati sovietici, e i talebani dicevano alla popolazione: guardate che tornano i russi. Loro l'hanno preso, l'hanno tenuto, hanno combattuto, hanno fatto il loro dovere e hanno cercato di spiegare alla popolazione che non portavano solo proiettili e bombe, ma volevano costruire anche un ponte, portare aiuti e risollevare il paese. Ancora scatti dagli occhi della guerra, una foto, Afghanistan 2005, ci sono delle donne con il burka e hanno in mano dei volantini con la fotografia di Clementina Cantoni, ricorderete la ragazza dell'organizzazione umanitaria non governativa CARE, rapita, ragazza italiana rapita in Afghanistan. Fausto Biloslavo, ci sono ancora forti rischi di rapimento per gli operatori umanitari e anche per esempio per i giornalisti in Afghanistan? Certo, gli operatori umanitari sono il mirino, i talebani si rendono conto che appunto grazie agli aiuti e grazie all'umanità anche di tanti contingenti come quello italiano potrebbero perdere il controllo della popolazione, cioè la NATO potrebbe conquistare le menti e i cuori degli afghani, e quindi colpiscono proprio le colonne che portano il cibo, colpiscono gli afghani che collaborano con le organizzazioni umanitarie internazionali, e 67 di loro, purtroppo, di operatori umanitari, civili, indifesi, disarmati, sono stati uccisi dall'inizio dell'anno, qualcuno brutalmente, addirittura sgozzato, per dare l'esempio. Due scatti, arrivano entrambi dalla Somalia e siamo nel 1988, gli occhi della guerra appunto, sono gli occhi di un soldato che scruta verso un orizzonte, insomma con intorno dei proiettili. Fausto, è una guerra dimenticata quella somala? Una guerra assolutamente dimenticata, scordata, il buco nero della nostra coscienza. Da 18 anni la Somalia, che è stata una nostra ex colonia, un nostro ex protettorato, dove siamo intervenuti nel 1992 perdendo anche dei soldati nella battaglia dei checkpoint Pasta, l'abbiamo completamente messo in un cassetto, in quei file appunto, che ce ne sono stati tanti e che ne abbiamo visti tanti, ne abbiamo raccontati tanti, di guerre assolutamente dimenticate. Ed è una tragedia incredibile, perché in questo momento in Somalia c'è un milione di persone all'interno della Somalia che vaga come un nugolo di fantasmi alla ricerca di cibo, perché in Somalia c'è di tutto, dai pirati che addirittura hanno i loro portavoce e pontificano con i giornalisti in tutto il mondo, a i signori della guerra, a addirittura i talebani somali, gli al-Shabaab, questi giovani votati alla guerra santa, e a un governo purtroppo appoggiato dalle truppe etiopiche e da troppe poche truppe della comunità internazionale, dell'Unione Africana in pratica, che non riesce a raddrizzare il paese. Ecco, se la Somalia è una guerra dimenticata, c'è invece una guerra trasversale, nascosta, quella che in molti paesi si sta facendo nei confronti dei cristiani. Abbiamo visto le persecuzioni in India, ma è notizia degli ultimi giorni quello che sta accadendo a Mosul, città nel nord dell'Iraq. Tant'è vero che circa 900 poliziotti iracheni sono stati schierati d'urgenza la scorsa notte a protezione dei quartieri delle chiese cristiane. Che cosa sta accadendo in Iraq? Sta accadendo che i resti delle bande dei tagliagole islamici legati ad Al-Qaeda, che a Mosul hanno sempre colpito la comunità cristiana, che è molto fiorente, ricordo il vero e proprio martirio di alcuni preti del vescovo caldeo di Mosul, che sono stati rapiti, torturati, ammazzati brutalmente. Adesso addirittura girano nei quartieri cristiani e fanno una sorta di tiro al piccione: chi prendono, prendono. Vedono uno che potrebbe non essere un musulmano e gli sparano. Grazie anche per questo racconto, Fausto Biloslavo, reporter di guerra. Lo ricordiamo, oggi si inaugura al Museo di Roma in Trastevere, a Roma naturalmente, Gli occhi della guerra, una serie di scatti che rappresentano 25 anni di reportage, con foto di Gianmichele Sin, Almerigo Grills, reporter morto sul campo, e appunto Fausto Biloslavo. Grazie Fausto. Bisogna fare bene le cose per meritare fiducia. Per questo Galbani vuol dire fiducia, perché fa le cose bene. Questo è il vostro formaggio di fiducia e Galbani vuol dire fiducia. Lo slogan è mitico, lo conoscete tutti, in particolar modo questo è stato ripreso da un vecchio carosello: Galbani vuol dire fiducia. Ma qualcuno, cioè in particolare alcuni dipendenti, stanno mettendo in dubbio questa fiducia. Sì, hanno presentato un esposto in procura contro la stessa azienda, denunciando di essere stati obbligati per anni dai capi del personale a vendere merce con la data di scadenza contraffatta. Tutto ha inizio da una denuncia da parte dei dipendenti del magazzino di Perugia della Galbani. Alla procura portano le prove, fatture, fotografie, registrazioni come questa. Allora, adesso dico una cosa, perché potrebbe far male, molto molto molto male a Galbani, perché è possibile che il team manager autorizzi con la cittadina a scancellare scadenze e rimette il timbro, c'hanno il kit? No, quello è possibile, che ci sono criminale, è possibile che dentro i furgoni ci sono merce scadute da 5-6 mesi? Cioè, c'è la cittadina. Acetone, che come avete sentito serve a cancellare le date impresse sulle confezioni di mozzarella, ricotta, pecorino, salumi, che possono così essere rimessi sul mercato, anche da scaduti, con un nuovo timbro. Una pratica che andrebbe avanti da anni, almeno dal 2000, nel deposito umbro della Galbani. I lavoratori avevano denunciato il sistema già 3 anni fa al capo del personale, da lì controlli. La Galbani manda a Perugia un ispettore che verifica la qualità della merce in deposito, la ritira, se scaduta, dai negozi. Ma poi niente, qualcuno riparte col trucchetto. I dipendenti parlano anche di carenze igieniche, di merce stivata fuori dalle celle frigorifere, a volte parcheggiata nei garage, e lo fa adesso con questo esposto in procura. Una denuncia pesante per un'azienda come la Galbani, la prima marca di formaggi italiani nel mondo, 4 stabilimenti, 80.000 clienti, da 2 anni proprietà di Lactalis, gruppo caseario leader in Europa, che possiede anche Invernizzi, Locatelli e Cademartori. Dall'azienda ancora nessuna dichiarazione ufficiale, ma ci assicurano, dopo gli opportuni controlli, nel pomeriggio saranno in grado di dare una risposta. Roberta Pellegatta, GR24, Il Sole 24 Ore. Come nacque la Nona Sinfonia e che cosa accadde la sera che per la prima volta Beethoven la presentò al pubblico viennese? Lo racconta il geniale professor Kilroy in una lezione indimenticabile. Stiamo parlando di Lezione 21, un film scritto e realizzato da Alessandro Baricco. Ha intervistato Adriana Fracchia. Intanto è una storia che ho scritto per il cinema, non viene da un mio libro, diciamo. L'ho scritta per il cinema e nella forma del cinema, almeno così come me la immaginavo io. È il racconto di una sera molto importante per la nostra civiltà occidentale, cioè quella in cui a Vienna Beethoven presentò per la prima volta la Nona Sinfonia, che poi diventò quel monumento che è ancora per noi una musica che è nel nostro sangue, che fa parte della nostra cultura. Quella sera, era una sera in realtà normale, la gente usciva, si vestiva, parcheggiava, andava a concerto e sentirono la Nona Sinfonia, che però aveva in sé un'ambizione che mandava a pezzi tutto il mondo in cui vivevano loro, tutto il mondo, diciamo così, di moda, di avventura, di modo musicale in cui viveva quel pubblico, e quindi che era una vera bomba. E sapere cosa successe esattamente quella sera è affascinante, una specie di thriller per sapere chi vinse e chi perse in quella sfida. Il film racconta sostanzialmente questa storia. Come sempre, quando racconti una storia vuoi raccontarne un'altra, perché quando racconti di una balena che uccide un capitano senza una gamba, eccetera, eccetera, non stai raccontando delle baleniere, ma sei in Medville e stai raccontando qualcosa di molto profondo, e così succede a tutti nel nostro piccolo, e quindi anche questo film credo che poi racconti invece qualcosa dell'essere uomini, dell'essere essere vecchi del rapporto nostro con la bellezza. Questo. Ecco, ma questo professor Kilroy esattamente che cosa incarna? Il professor Kilroy è un personaggio che viene anche dal mio libro, da City, è un vecchio professore geniale, un po' pazzo, ma non troppo, che se ne frega del mondo e che ha le sue idee originali, indipendenti. È che è lui che fa questa lezione, che i suoi studenti poi non dimenticano più perché li colpisce e li segna per sempre. A distanza di anni questi studenti ricostruiscono questa lezione e questo è il film. GR Extra Large, queste le notizie della giornata. Notizie positive dalle borse anche oggi, come avete sentito, mentre scendono i tassi sui mutui con l'Euribor che passa al 5,24% dal 5,32 di ieri. E buone notizie arrivano anche dall'inflazione. L'Istat conferma la stima preliminare di un 3,8% in settembre dal 4,1% di agosto. I casalesi progettavano un attentato a Roberto Saviano, l'autore di Gomorra, entro Natale. La rivelazione è giunta da un pentito. Su Consulta e Vigilanza la proposta di Walter Veltroni. Il centrodestra scelga il nome del giudice costituzionale, ha detto, ma voti Leoluca Orlando come presidente della commissione sulla RAI. Ripartono le proteste nelle scuole, ma soprattutto nelle università. Ieri a Milano alcuni studenti hanno brevemente occupato il rettorato della statale. Blocco della didattica a Firenze e Napoli, volantinaggi a Parma, consigli straordinari a Pisa, lezioni all'aperto a Palermo, raccolte di firme a Roma. Alcuni dipendenti della Galbani avrebbero presentato un esposto in procura contro la stessa azienda, denunciando di essere stati obbligati per anni dai capi del personale a vendere merce con la data di scadenza contraffatta. Approfondimento economico dedicato, come per tutta la settimana, alle conseguenze della crisi finanziaria su alcuni settori particolari. Ieri vi abbiamo parlato delle ripercussioni sul mondo sportivo americano. Oggi sentiamo invece quali sono quelle sul mondo sportivo europeo. Boris Johnson, the mayor of London, with the Olympic flag. Era appena l'agosto scorso quando Boris Johnson, sindaco di Londra, sventolava la bandiera olimpica nel cielo di Pechino. Ma l'entusiasmo a cinque cerchi del primo cittadino londinese è crollato insieme alle borse del vecchio continente. La crisi finanziaria importata dagli Stati Uniti fa ora scricchiolare i sogni olimpici di Londra 2012. I giochi non sono a rischio, ma il budget di 13 miliardi di euro sì, come la copertura del 1,4 miliardi di euro per il villaggio atleti e dei 571 milioni per l'area stampa. E la crisi fa tremare anche alcune squadre della Premier di calcio. Su tutte il West Ham, allenato da Gianfranco Zola, abbandonato dallo sponsor e a rischio crack causa l'indebitamento del suo proprietario islandese Gudmundsson, e i debiti dell'intera Lega ammontano a oltre 3,5 miliardi di euro. Ma l'equilibrio tra incassi al botteghino, diritti TV e merchandising sembra una solida garanzia per il futuro, come spiega Giovanni Palazzi, presidente di Stage Up, società leader nella consulenza e l'analisi dello sport business. Sulla Premier League io ritengo che gli allarmi siano anche qua ingiustificati, l'ha detto il commissioner stesso della Premier League, perché si parla di un livello di indebitamento alto ma a fronte di una situazione patrimoniale forte, quindi di un sistema di fatturato il più importante d'Europa, degli asset patrimoniali rappresentati dagli stadi di proprietà importanti, un sistema di ricavi molto diversificato. Ma è come in questo periodo, comunque il futuro dello sport di vertice è legato a quello delle banche. Ancora Palazzi. Laddove c'è un sistema di credito più in difficoltà è più probabile che ci possano essere delle difficoltà. Quindi ad esempio per quello che riguarda il mercato italiano, onestamente vedendo anche i multipli patrimoniali, molto probabilmente l'Italia, al di là dell'indebitamento, rischia meno, che so, di un paese come gli Stati Uniti. Intanto c'è però un altro suddito di Sua Maestà che guarda già al domani del suo sport e del suo business. I believe should happen with us in Formula One. The trouble with Formula One these days is too democratic. È Bernie Eccleston, padre padrone della Formula 1, impegnato a ridurre spese e aumentare profitti di un circus che ogni anno spende oltre 1,5 miliardi di euro. Perciò il vecchio Bernie vuole imporre a tutti i team un motore unico dal 2010, per aumentare lo spettacolo e tagliare le spese del 90%. Dario Ricci, GR 24, Il Sole 24 Ore. Gentile presidente Napolitano, le chiedo di non firmare il decreto Gelmini che mette la parola fine alla scuola pubblica. Le parole non sono nostre. Sì, questo è l'incipit di una lettera che migliaia di persone stanno inviando al capo dello Stato attraverso il sito del Quirinale. Pare che ne arrivi una ogni 2-3 minuti. Tra l'altro c'è anche quella inviata dalla scrittrice Dacia Maraini. Sì, il Presidente della Repubblica ha risposto alle persone che stanno inviando questa email dicendo sostanzialmente che non può intervenire. Pur nella viva attenzione e comprensione per le motivazioni di tali appelli, dice si deve rilevare innanzitutto che il Parlamento non ha ancora concluso l'esame del provvedimento in questione. Ma tutto il mondo della scuola insieme a quello dell'università è in fermento, sentiamo. Dopo lo sciopero di venerdì scorso che ha visto almeno 300.000 studenti delle scuole superiori in piazza contro il decreto Gelmini, esplode la protesta anche negli Atenei. In attesa dello sciopero generale del 30 ottobre prossimo, l'Unione degli Studenti delle Scuole Superiori spiega le sue ragioni. Valentina Giorda, dell'esecutivo UDS. Le ragioni della protesta sono sia di metodo che di merito. Di metodo perché questi decreti sono stati fatti sopra la testa degli studenti senza consultare nessuno, il ministro sta decidendo tutto da solo. Di merito perché siamo profondamente contrari alla politica in generale del ministro Gelmini, che è quella di economizzare sulla scuola, quando invece per un paese che si sviluppa la scuola e l'educazione dovrebbero essere la prima fonte di investimento. E ieri a Milano alcuni studenti universitari hanno brevemente occupato il rettorato della statale, mentre a Torino l'università compatta minaccia di far saltare l'apertura dell'anno accademico. Blocco della didattica a Firenze e Napoli, volantinaggi a Parma, consigli straordinari a Pisa, lezioni all'aperto a Palermo, raccolte di firme a Roma. Preoccupata la conferenza dei rettori delle università italiane per i tagli previsti dalla Gelmini. Il rettore della statale e presidente dell'associazione di categoria, Enrico De Cleva. I tagli sono intollerabili per il sistema perché sono di un ordine di grandezza che incide addirittura sulle possibilità di pagare le retribuzioni. A partire dal 2010 oggettivamente l'impossibilità di fare un bilancio in pareggio, non c'è margine, non è sopportabile, cioè questo è il nodo fondamentale. Adriana Fracchia, GR24, Il Sole 24 Ore. L'ex presidente della giunta regionale abruzzese Ottaviano Del Turco è da ieri libero ma con l'obbligo di dimora nel suo paese, Collelongo. Del Turco si difende, racconta la sua verità su Sanitopoli. E tra l'altro Raffaella Calandra, che lo ha intervistato, gli ha chiesto se il suo partito si è comportato bene durante questo caso giudiziario. Sentiamo che cosa le ha risposto. Mi chiede se da parte del Partito Democratico si aspettava un atteggiamento più, diciamo, più espansivo. Sì, le confermo che mi aspettavo un atteggiamento più espansivo, che non c'è stato, perché c'è un vecchio problema non risolto, sia della componente ex democristiana, sia della componente ex comunista in quel partito, che non riesce a fare i conti con il tema delle garanzie giuridiche dei cittadini, perché pensa sempre che è meglio non disturbare il conducente di queste cose. Io non sono d'accordo. In ogni caso, ognuno fa quello che vuole in questi casi. Io mi sono arrivate tante di quelle lettere da parte di dirigenti del Partito Democratico che mi bastano. Certo, mi sarei aspettato da parte di Walter Veltroni e da qualcun altro un atteggiamento un pochino più attento anche ai miei diritti. E l'intervista integrale a Del Turco andrà in onda nella trasmissione Storiacce domenica alle 19.30. A proposito di Walter Veltroni, ne parliamo per un altro motivo, insomma, quindi non per l'inchiesta Del Turco. C'è un'apertura da parte del leader del Partito Democratico sulla vicenda che sta tenendo in qualche modo bloccate le Camere da qualche giorno, ossia l'elezione di un nuovo giudice costituzionale e del presidente della Commissione di Vigilanza Rai. Ebbene, sentiamo la proposta di Veltroni. La mia sollecitazione è semplicemente questa: siccome il tempo sta per scadere, oggi pomeriggio c'è la conferenza dei capigruppo, il Polo delle Libertà o il Popolo delle Libertà ci dica chi è il loro candidato alla Corte Costituzionale, naturalmente purché sia una persona con determinate caratteristiche di probità e di competenza. Noi lo voteremo e loro votino Leoluca Orlando, Presidente della Commissione Parlamentare Vigilanza. In 24 ore questa storia, che dura l'una da anni, quella della Corte Costituzionale, e l'altra da mesi, si risolve. E Veltroni oggi ha parlato in occasione dell'inaugurazione della televisione del Partito Democratico, che trasmette sia sul web che sul satellite, ma pare che non siano mancati i problemi tecnici, sentite un po'. L'inizio delle trasmissioni era annunciato per le 9.30, ma udem.tv si fa attendere. E 35 minuti primi del 14 ottobre 2008, il primo giorno di UDEM, la televisione del Partito Democratico. Noi ci scusiamo, dovevamo avere oggi come nostro ospite a commento della rassegna stampa Michele Serra. Per essere una TV diversa, UDEM.TV non delude le aspettative. Palinsesto stravolto, rassegna stampa ridotta all'osso, sito internet bloccato dai tanti accessi e qualche problema tecnico. Poi finalmente le telecamere si accendono in uno studio Verde Speranza e compare lui, l'ideatore, Walter Veltroni. Oggi questa televisione parte in un giorno particolare, che è il 14 ottobre, che è l'anniversario, primo anniversario delle primarie, quindi anche se partiamo, diciamo, con le approssimazioni del caso, come quando partono i giornali nuovi, no? Che magari arrivano tardi in edicola. Presentatrici da look retro e lavagne interattive per leggere i giornali, la ricetta del primo giorno di programmazione. Poi lunghi intervalli per collegare il notiziario alle rubriche e uno sfondo arancione per dare un tocco di colore ad un progetto che Veltroni annuncia come totalmente nuovo. Una televisione orizzontale non verticale, cioè di solito la televisione è qualcosa che uno spettatore si becca, no? Perché gli arriva da sopra, da un luogo invisibile. Qui invece è una televisione che si fa insieme. Gioia Reffo, GR24, Il Sole 24 Ore. Sono le 13.48, questo è il GR Extra Large e queste le notizie della giornata. Vanno bene anche oggi le borse, mentre scendono i tassi sui mutui con l'Euribor che passa al 5,24% dal 5,32% di ieri, le piazze finanziarie europee sono tutte col segno più, guadagna oltre il 6% Piazza Affari. E buone notizie arrivano anche dall'inflazione, l'Istat conferma la stima preliminare di un 3,8% in settembre rispetto al 4,1% di agosto. I casalesi progettavano un attentato a Roberto Saviano, l'autore di Gomorra, entro Natale, la rivelazione è arrivata da un pentito. Su Consulta e Vigilanza la proposta di Walter Veltroni. Il centrodestra scelga il nome del giudice costituzionale, ha detto, ma voti Leo Luca Orlando come presidente della commissione sulla RAI. Ripartono le proteste nelle scuole, ma soprattutto nelle università. Ieri a Milano alcuni studenti hanno brevemente occupato il rettorato della statale, blocco della didattica a Firenze e Napoli, volantinaggi a Parma, raccolte di firme a Roma. Rallentano le entrate, il dato è nel bollettino statistico della Banca d'Italia che indica in agosto un gettito di 31 miliardi e mezzo contro i 34 e mezzo dell'agosto 2007. Ma altri dati sono stati diffusi oggi e sono quelli sull'inflazione, l'Istat conferma il calo di settembre. Prezzi in frenata a settembre. L'inflazione è scesa al 3,8% dal 4,1% di agosto. Confermando la stima preliminare, l'Istat rende noto un calo su base mensile dello 0,3%, calo che porta al 3,4% il tasso di inflazione acquisito per il 2008. Il rallentamento di settembre riflette in primo luogo la decelerazione della crescita tendenziale dei prezzi dovuta al venir meno delle tensioni nel comparto energetico. La benzina infatti è calata dell'1%. Anche se rispetto a un anno fa la crescita resta dell'11,5%. Si attenuano inoltre le spinte al rialzo nel comparto dei beni alimentari e in quello dei servizi. Gli aumenti di pane e cereali frenano, ma la crescita resta sostenuta. Dal 12,2% di agosto al 10,7%. Il pane cresce dello 0,2% su base mensile e dell'8,6% rispetto al 2007. La pasta rispettivamente dell'1% e del 24,9%. Fra i capitoli di spesa in crescita, a settembre ci sono l'istruzione più 1,2% e l'abbigliamento e le calzature più 0,4%. Città più cara a settembre, Cagliari. Maria Luisa Pezzali, GR24, Il Sole 24 Ore. Un tema, quello dell'inflazione, che in parte rientra anche nei prossimi rinnovi contrattuali. Fra questi c'è quello degli statali. Oggi nuovo incontro fra l'ARAN, l'agenzia che rappresenta la pubblica amministrazione, e i sindacati. Francesca Malaguti, che lo stai seguendo per noi, quali sono le novità? L'incontro di oggi sostanzialmente non ha cambiato le carte in tavola. I sindacati del pubblico impiego rimangono determinati a confermare le mobilitazioni che saranno definite giovedì. Si tratterà di 3 giorni di scioperi regionali, uno per il nord, uno per il centro e uno per il sud, tra fine ottobre e inizio novembre, a cui seguirà, in mancanza di risposte dal governo, un giorno di sciopero nazionale. Il ministro Brunetta sostiene che i soldi stanziati in finanziaria, 6 miliardi, di cui 3 direttamente destinati al rinnovo per il contratto del pubblico impiego, sono sufficienti, specie in questo periodo di vacche magre. I sindacati unitariamente rispondono: no, la platea è vasta, l'aumento sarebbe solo di 8 euro al mese per l'anno in corso e di 65 euro al mese per il 2009, troppo poco se si considera l'inflazione che galoppa. In mezzo ai due contendenti l'ARAN, l'ente delegato dallo Stato alla trattativa con i sindacati del pubblico impiego. Il Presidente afferma: avvieremo i tavoli tecnici trattando con le risorse messe a disposizione dal Governo. Come a dire, non trattiamo sul quanto, ma sul come. E da Roma è tutto, a voi la linea. Grazie Francesca Malaguti. E la crisi finanziaria arriva anche naturalmente sui quotidiani e nel mondo arabo. Adib Fateli. La ripresa delle principali borse mondiali in primo piano sulla stampa araba. Da segnalare le parole della guida spirituale della rivoluzione islamica, il grande Ayatollah Khamenei, riportata da Al-Qusay Arabi. Il liberismo sta subendo lo stesso destino del marxismo. L'Italia è in prima pagina su due tra le maggiori testate. Ashraf al-Awsat che titola «Le aggressioni contro gli immigrati in Italia alimentano il dibattito sul razzismo». E Al-Qusay Arabi che segnala come nel settembre scorso 13 immigrati africani sono stati buttati vivi nel mare mentre cercavano di raggiungere le coste italiane. Peggiora l'odissea della comunità cristiana in Iraq, da giorni costretta alla fuga dalla città di Mosul. Al-Hayat lancia l'allarme da un piano sistematico per la deportazione dei cristiani. In un'asta di beneficenza tenuta nel Qatar, un pugno di terra di Gerusalemme è stato aggiudicato per 180.000 dollari USA. Al-Qusay Arabi riferisce che l'asta ha raccolto 17 milioni di dollari per sostenere un fondo per la salvaguardia della Gerusalemme musulmana. Con quello per l'economia si è conclusa ieri l'assegnazione dei premi Nobel. Quest'anno tra l'altro ci sono state un po' di polemiche, almeno in Italia, su quello per la letteratura, assegnato, lo ricordiamo, al francese Le Clézio, autore poco conosciuto e secondo alcuni critici italiani non meritevole del massimo riconoscimento. Ma anche su quello della fisica, l'italiano Nicola Cabibbo, dicono in molti, lo avrebbe meritato perché era in realtà l'uomo che ha dato il via alle scoperte poi che hanno portato al premio a due giapponesi e un giapponese naturalizzato americano. Ma chi stabilisce a chi assegnare i Nobel? Sentite un po'. A decidere chi seleziona i premi Nobel per la sua espressa volontà testamentale è stato proprio Alfred Nobel in persona, che ha stabilito nelle sue ultime volontà le istituzioni responsabili dell'assegnazione di ciascun premio. L'Accademia Reale Svedese delle Scienze, per esempio, stabilisce il vincitore per la fisica e la chimica mediante dei comitati interni e dal 1969 ha ricevuto l'incarico di selezionare anche il premio Nobel dell'economia. Il Karolinska Institute è invece deputato alla designazione del premio Nobel per la medicina. In questo caso, ad operare la scelta sono 5 membri interni del comitato in carica per 3 anni, cui si affiancano 10 temporanei che restano attivi un solo anno. Il premio Nobel della letteratura è assegnato dalla Swedish Academy, assistita da un comitato ad hoc formato da 4 o 5 membri eletti per un periodo di 3 anni, che screma normalmente un totale di 350 candidature, arrivando a redigere una lista finale di 15 o 20 nomi. Il processo è normalmente lungo e tortuoso e implica vari stadi di selezione prima di arrivare al vincitore. Il premio Nobel per la pace, forse il più ambito, viene invece assegnato da un comitato di 5 persone, 2 uomini e 3 donne, eletto dal Parlamento norvegese, lo Stirting. I loro nomi, Ole Dambold Mios, Berge Führer, Sissel Marie Rombeck, Inger Marie Itteron, Kaci Kullmann Five, non dicono probabilmente nulla, ma sono proprio loro che, a partire dal febbraio di ogni anno e con l'apporto di un team di consulenti esterni, si dedicano alla certosina selezione dei candidati al premio Nobel più noto nel mondo. Sergio Nava, GR24, Il Sole 24 Ore. Buone notizie finalmente, salgono le borse, scendono i tassi sui mutui e l'Istat conferma il calo dell'inflazione. Saviano deve morire, nelle rivelazioni di un pentito il piano dei casalesi per uccidere lo scrittore di Gomorra. Formaggi scaduti, si cambia l'etichetta, esposto dei dipendenti di un magazzino della Galbani. Università e scuola, ecco le proteste, negli Atenei ripartono le occupazioni. Veltroni propone lo scambio, pronti a votare un giudice costituzionale proposto dal centrodestra, ma Orlando presiede la commissione di vigilanza Rai. Ed è tutto per questa edizione del GR Extra Large, curata e condotta da Alessandra Tedesco e da Simone Spezia. Al coordinamento Daniele Biacchesi, in regia Peter Bescapè. Se volete potete scriverci extralarge@radio24.it o riascoltarci www.radio24.it. Il prossimo GR alle 15, Extra Large torna come sempre domani alle 13. GR 24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.